Tower, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh bringing you the best news in rock and non solo su Tam Tam Europe. Tre pillole al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. E l'anno scorso il gruppo di Glasgow, Bell and Sebastian, hanno vinto il Brit Award per Best Newcomer, ma sono molto enigmatici, vogliono che la musica parli per loro. Arriva la notizia che il bassista Stuart David ha lasciato il gruppo per concentrarsi sul loro nuovo gruppo Looper. Dice che la separazione è stata amichevole e che vuole anche impegnarsi sul romanzo che sta scrivendo. E Bell and Sebastian pubblicheranno il loro primo singolo alla fine di questo mese, che si intitola Legal Man. Finora hanno pubblicato soltanto degli EP, che non possono essere considerati per la classifica, quindi sarà molto interessante vedere dove arriveranno. Il gruppo dice che è un infectious northern soul dance anthem, dove cantano diversi membri del gruppo. Se ci volete segnalare i gruppi di ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio allo 0348 24 38 888. Vi lasciamo con il rock femminile di Hepburn per Stuart David di Bell and Sebastian e I Quit da Tam Tam Europe e Fergal Kavanagh. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. There was a time when I would go walking backwards round the world if you said you're mine. And I'd run blindfold down the King's Road Monday morning if you just for once arrive on time. But you turned into another liar and you came on like a new messiah. Gran bel successo. Logicamente sto scherzando, è una proposta sicuramente molto interessante, sicuro che abbiamo ascoltato grazie a Fergal, che salutiamo insieme alla nostra redazione di Londra. Facciamo una piccolissima pausa, tra poco l'ultima consegna del bacio in tour. SPOT Spot Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Phil, the rock messo in onda tre volte al giorno on Radio 2 The Moving Station. Non ci sono buone notizie per the godfather of soul, James Brown. Il suo ufficio è stato distrutto dal fuoco qualche settimana fa. Tra l'altro arrivano l'aggiornamento che gli investigatori sostengono che fu acceso deliberatamente e che la porta dell'ufficio non era chiusa a chiave quella sera. Amici dicono che Brown è molto depresso della perdita dei brani mai pubblicato e più di 40 anni di ricordi personali, come il cappotto che indossava nel film The Blues Brothers e le sue guanti di box da Rocky 4. Infatti Brown ha offerto un ricompenso di $20,000 per l'informazione sul reato. Vi ricordiamo il nostro website www.radiotour.it. From Tam Tam Europe, our news desk in London, and from Fergal Kavanagh, vi lasciamo con il brano for James Brown, intitolato come La Casa di Elvis Presley. Questo sono i Kashmir e Graceland. Alla prossima! Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello again, this is Fergal Kavanagh with Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e altro preparate dalla nostra redazione a Londra. E Day One stanno avendo successo con il loro pezzo I'm Doing Fine, sto bene, e ci credo, visto che i due componenti hanno potuto lasciare i loro vecchi lavori. Tony Hardwidge lavorava in un macellaio, mentre il cantante Phil Byrne aveva un incarico un po' più divertente. Era un rapper su una radio a Bristol, gli ascoltatori suggerivano un tema e lui doveva fare un rap divertente a proposito. Anche se Day One hanno incontrato

su Radio Tour The Moving Station Fergal e Tantam Europe, che ritroverete domani intorno alle 17.10. SPOT Spot Radio Tour The Moving Station present Tantam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e voi state ascoltando Tantam Europe, pillole di rock e altro che vanno in onda tre volte al giorno. Il numero dei fan di Iguana Ape sta crescendo tantissimo da quando hanno pubblicato la loro cover di Big in Japan. The Iguana Apes sono apparsi sulle scene tedesche quando nel 96 hanno vinto un concorso sponsorizzato da Viva TV, la musica television di Germania. Il premio era un video e la chance di registrare in studio, e i quattro hanno saputo gestirsi bene. Il primo singolo è uscito soltanto in Germania, ma poi il successo ottenuto dal brano ufficiale del European Snowboard Championships nel 1998 li ha lanciati sulle scene internazionali. E chissà, forse un giorno saranno big in Japan. E vi ricordo il mio indirizzo email per segnalarci gruppi e brani da ascoltare: fergal@radiotour.it. From Tantam Europe, Fergal Kavanagh and our news desk in London, ciao! Vi lascio con il nuovo singolo di Iguana Apes, Big in Japan. Alla prossima! Tantam Europe. Quello che abbiamo ascoltato grazie a Fergal, che salutiamo insieme a tutti coloro che collaborano e lavorano a questo progetto direttamente da Londra. Facciamo una piccola pausa e tra poco ci sarà un'altra consegna del bacio in tour e sarà anche l'ultima per quanto riguarda quest'oggi. SPOT Spot Radio Tour The Moving Station present Tantam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everyone, this is Fergal Kavanagh e benvenuti a Tantam Europe. In questo pillole che vanno in onda tre volte al giorno, raccogliamo le notizie preparate dalla nostra redazione di Londra e ve le proponiamo con rock e non solo. E Marilyn Manson ha annunciato che il suo nuovo progetto sarà, oltre al nuovo album che uscirà in autunno, comprendere anche ben due libri. Uno che sarà un romanzo fantasmagorico ed esplicito, l'altro un libro di fotografie e acquerelli. Il titolo sarà Hollywood in the Shadow of the Valley of Death e doveva comprendere anche un film, ma secondo Manson rischiava di non riuscire a contenere la sua visione artistica. Our website is at www.radiotour.x. Please send me an email if there's anything you'd like to hear. Do Fergal Kavanagh, Tantam Europe, è tutto. Vi lasciamo con Marilyn Manson e The Dope Show. Alla prossima! Tantam Europe. Yeah. good-looking models. Take who will wake up with tomorrow. Lots of pretty ones that wanna get you high. But all the pretty ones will leave you alone and blow your Manson, The Dog Show su Radio Tour The Moving Station. C'è Anna che si chiede come si può fare per incontrare Fergal, ma tranquillamente potrai incrociarlo nella nostra sede centrale, perché molto spesso lui capita qui, non è sempre nella nostra redazione di Londra. Un'altra pillola di Tantam Europe che tornerà la prossima settimana, lunedì intorno alle 17:10. Ci prendiamo una piccolissima pausa, tra poco. S-P-O-T Spot. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello again, this is Fergal Kavanagh with Tam Tam Europe, la vostra pillola di rock e altro preparate dalla nostra redazione a Londra. È stato inaugurato una mostra alla Focus Gallery di Londra di Jared Mankiewicz, il fotografo dei Rolling Stones e altri. La mostra, che durerà fino al 17 giugno, si chiama The 60s and One e include foto storiche degli Rolling Stones, di Jimi Hendrix, Paul McCartney e Marianne Faithfull. Mankiewicz ha dichiarato: la cosa più bella degli anni 60 è che noi non ci rendevamo assolutamente conto di quello che facevamo. A quel tempo il rock and roll era una cosa nuova, prima di noi non esisteva. Non c'era nessun Rolling Stone all'inaugurazione, ma era presente la modella e attrice Anita Pallenberg, l'ex compagna di Keith Richards. Questo è tutto per ora. Se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo: fergal@radiotour.it. Do Tam Tam Europe, la nostra redazione di Londra, e do Fergal Kavanagh. Vi lasciamo con un brano per tutti gli appassionati della fotografia, Il Filter e Take a Picture. Alla prossima. Tam Tam Europe. A man and woman feel with all me. A man and woman, mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do. Spend my time. Get away from me, please. need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Gonna let you hypnotize. I got number us is eyes. Now woman, get away. I'm asking woman, listen what I say. Sigla che abbiamo ascoltato grazie a Fergal, che salutiamo, così come la nostra redazione di Londra. Sono le 17:15 minuti, siete su Radio Tour The Movie Station, benvenuti. Ne facciamo una piccolissima pausa, tra poco ci collegheremo di nuovo con i nostri agenti perché ci sarà l'ultima consegna del bacio in tour. SPOT Spot Radio Tour The Movie Station present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavner e voi state ascoltando Tam Tam Europe, pillole di rock e altro che vanno in onda 3 volte al giorno. È molto importante adesso l'immagine per una band emergente e questo lo affermo Peter, il cantante e chitarrista del gruppo romagnolo Naftalina. Dice, l'essere visibile è una delle possibilità per una rapida carriera. Per i Naftalina sicuramente conta. La gente ci vede giovani, colorati e forse proprio per questo molti pensano a noi come una band dell'immagine costruito. In realtà noi andiamo in giro con i capelli colorati da molto tempo e non solo da quando siamo musicisti. Ma giustamente continuo a spiegare che alla fine è la musica che conta. Il nostro look non è necessariamente legato alla musica che facciamo o agli obiettivi che abbiamo. Del resto, la scalata in classifica non dipende affatto dall'immagine che uno ha, quanto piuttosto dalla musica che propone, e questo si ascolta, non si vede. E adesso su Tam Tam Europe vi la facciamo ascoltare, siccome non c'è possibilità di farli vedere. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio allo 0348 24 38 888. Vi lasciamo con i Naftalina e Say da Fergal Kavner. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Mami, noi ti stiamo ascoltando sei Natalina, singolo che abbiamo ascoltato grazie alla proposta di Tanta Europe, in particolare di Fergal e della nostra redazione di Londra. Facciamo una piccola pausa, tra poco. SPOT Spot Radio Tour, the movie station. Present Tam-Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and this is Tam-Tam Europe, your daily dose of rock, broadcast three times a day, keeping you up to date with what's going on in the world of rock, e non solo. È quasi pronto il terzo album dei Garbage. Dopo il successo ottenuto dal title track di James Bond, The World Is Not Enough, si sono riuniti a Wisconsin per compilare una raccolta di B-sides e remix, ma dopo alcuni incontri l'energia era così forte tra di loro, che hanno deciso di lavorare su un nuovo album. E sul loro sito www.garbage.com, dove chattano spesso con i fans, la cantante Shirley Manson ha commentato: abbiamo rimandato ad un altro momento il progetto della raccolta e abbiamo cominciato a scrivere canzoni totalmente nuovo. Non c'è bisogno di dirlo, siamo super elettrizzati. Ed a proposito del loro incontro regolare con i fans sull'internet, Shirley continua: the best part is that it allows us to share a simultaneous experience with our fans around the world. Questo è tutto per ora. Se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo: fergal@radiotour.it. Tam-Tam Europe, nostra redazione di Londra, e do Fergal Kavanagh è tutto, vi lascio con i Garbage e I Think I'm Paranoid. Alla prossima! Tam-Tam Europe. Garbage, questa Think I'm Paranoid, alle 17:15 minuti, l'abbiamo ascoltato grazie alla proposta di Fergal durante Tanta Europe. Sì, salutiamo lui e anche gli amici della redazione di Londra. Facciamo una piccola pausa e tra poco sarà tempo di Just For You. SPOT Spot Radio Tour, the moving station. Present Tam-Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam-Tam Europe, le pillole che vanno in onda tre volte al giorno preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Leggendo un articolo sui stili Dan ci siamo resi conto di quanto è cambiato il mondo di rock. Mancava molto informazione sulle carriere dei stili Dan negli anni 70, nonostante abbiano venduto più di 11 milioni di copie di dischi. L'autore dell'articolo spiega che tutte le documentazioni ufficiali sugli stili Dan è andata distrutta ed è per questo motivo non è stato possibile consultare la biografia precedente del gruppo. Oggi sarebbe impossibile pensare che tra 20 anni non si possa più leggere le storie degli Oasis o dei Blur. Il rock music è diventato un vero business e ogni settimana vengono venduti milioni di riviste di rock in tutto il mondo. Forse ci stancheremo meno di alcuni artisti se non li leggessimo più tanto su di loro. Pensate un po' quanti miti del rock c'erano negli anni 60, certo non esistono più miti a quel livello. E per adesso è tutto, remember our website at www.radiotour.it. Dalla nostra news desk a Londra e da Fergal Kavanagh vi lascio con Steely Dan, che si sono rimessi insieme dopo 20 anni, e questa volta potete leggere tutto a proposito di loro. Questo è Cousin Dupree, ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. Studio centrale in Italia, grazie a Fergal e alla nostra redazione di Londra che ha curato questa altra pillola di Tam Tam Europe. La prossima domani intorno alle 17:10 c'è anche una piccolissima pausa, torniamo subito dopo con Calis e Good Stuff ed RT presento Sally. SPOT Spot.